Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. Buonasera cari ascoltatori e cari ascoltatrici. Eccoci qui come ogni domenica per passare un'oretta in compagnia. Adesso salutiamo il nostro Antonio. Buonasera. Ciao Antonio. E un cordiale benvenuto alle amiche e agli amici di Blu Radio Veneto che invitiamo alla nostra consueta passeggiata virtuale tra sentimenti, emozioni e ricordi sulle frequenze di 88.70 e 94.60 in FM. Ricordiamo per chi lo desidera la possibilità di seguire il programma in streaming o di scaricare il podcast dal sito bluradioveneto.it. Questa sera abbiamo un ospite virtuale, un poeta, che è il signor Antonio Donadio, che abbiamo già avuto modo di ascoltarlo altre volte. E adesso andiamo prima con la prima canzone e poi lo chiamo, sì, ci sarà lui. Siccome in questi giorni è mancato Aurelio Fierro, un cantante degli anni 50-60, e stasera ascolteremo qualche brano interpretato da lui, e il primo è Dove sta Zazà. Festa di San Gennaro, quanta folla per la via, con Zazà compagna mia me ne andai a passeggiare. C'era la banda di Pignataro che suonava il parsifallo, il maestro sul piedistallo ci faceva delizia. Il momento culminante del finale travolgente, mi sa tutta che la gente se fumare una Zazà. Dove sta Zazà, fumaronna mia? Come fa Zazà senza Isaia? Parapara Zazà che t'ho perduto, ahimè. Chi ha trovato Zazà che m'ha portata a me? Diamola a trovà, su facciamo presto. Diamola a trovà con la banda in testa. Uzzazà, uzzazà, uzzazà, tutte quando mi affida. Zazà, zazà, chi sei a stacca, chi sei a stacca, chi sei a stacca. Zazà, zazà, zazà, zazà, zazà, come ha già fatto te trova, chi senza te non posso star. Zazà, zazà, zazà, zazà, zazà, zazà. Era la festa di San Gennaro, l'anno appresso canti e suoni, bancarelle e processione, chi se può dimenticare. C'era la banda di Pignataro, centinaia di bancarelle, di torrone e di nocelle che facevano incantare. Come allora quel viavai ritornò per quella via, ritornò pure Isaia, sempre in cerca di Zazà. Dove sta Zazà, fumaronna mia? Come fa Zazà senza Isaia? Para para Zazà che t'ho perduto, ahimè. Chi ha trovato Zazà che m'ha portata a me? Se non troverò lei che è tanto bella, ma contenterò che tua sorella. Tamerò, tamerò, tamerò, pure a lei glielo dirò che tamerò, tamerò Zazà, tamerò Zazà, tamerò Zazà. Eccoci di nuovo in studio e stasera avremo con noi il poeta bergamasco Antonio Donadio, che sentiremo. Buonasera Antonio. Buonasera, buonasera. Ciao Antonio. Ciao Gesuina, buonasera a tutti. Come stai Antonio? Beh, non c'è male, non c'è male. Comunque volevo dire prima una cosa. Avete aperto la trasmissione con una canzone famosa, Zazà Zazà, e io sono, tu giustamente, in parte hai detto poeta bergamasco, perché ormai vivo da anni a Bergamo. Dopo mi è venuto in mente. Ecco, sì, no, No, io ringrazio anche perché essendo salernitano di Cava dei Tirreni, avendo frequentato Napoli anche per motivi di studio, l'Università di Napoli e per altre occupazioni sempre legate alle mie occupazioni appunto di scrittore, anche il Circo della Stampa ed altro, erano queste le canzoni che mi hanno accompagnato anche nella mia giovinezza. Sì, belli anni, vero? Beh, è un po' di nostalgia. Sì. Bene, stasera di che cosa ci parli? Ma senti, Cesuini, innanzitutto io ringrazio questa radio che mi ospita ormai quasi annualmente, perché l'ultima volta è stato un anno fa, proprio in questi giorni, e mi sembra che fosse maggio. E allora io raccontai che stava uscendo l'ultimo libro mio, che poi è uscito, ed è Il calcio d'autore, da Umberto Saba, Gianni Brera, Il football degli scrittori, con prefazione di Alessandro Bonan, ed è stato edito dalla casa editrice La Scuola. Ecco, il libro è uscito, è andato molto bene, presentazioni un po' dappertutto in tutta Italia, l'ultima presentazione è stata il 3 di aprile, quindi da... È proprio recente. Esatto, sì, e ancora una volta devo dire ringrazio sempre il Comune di Milano perché per la terza volta consecutiva sono stato ospite nel Comune di Milano presso la Biblioteca Centrale, Palazzo Sormani, nella sala del Grechetto. Ecco, è una serata piacevole, mi hanno affiancato come relatore oltre al giornalista e scrittore Alessandro Bonan, che è conduttore di una seguitissima trasmissione Sky Sport, calciomercato, anche un noto, un amico, ma noto poeta e critico letterario, Giancarlo Pontigia, e poi ho avuto il piacere, devo dire, con un pizzico, ecco, da un punto di vista di maschio, devo dire, che le letture sono state affidate, grazie all'amicizia con Alessandro Bonan, alla modella e attrice Laura Bart, che è una nota, oltre che bella, modella che è un po' il volto è il volto di Juventus Channel, quindi molto nota negli ambienti sportivi e non solo. Bene, bene. Ecco, quindi questo diciamo per il libro che e poi ovviamente poi nel corso della trasmissione c'è già in programma il prossimo libro che poi dirò. Dimmi. D'accordo, d'accordo. Allora cominciamo, ti diamo la parola. Sì, io volevo innanzitutto dire questo, che ogni volta sono venuto ospite nella vostra trasmissione, anche perché frequento un po' la terra veneta. Lo sappiamo. Ecco, ho amici carissimi come Lia e Flaminio De Martin. Salutiamo. Esatto, che salutiamo caramente, del club Verdurin. Sì. O Verdurin, alla francese, o in Veneto Verdurin. E poi ho cari amici poeti come Arnaldo Ederle di Verona, il professor Ramat, Silvio Ramat, cioè parecchi, ecco, nell'ambiente veneto che mi capita, se non di frequentare direttamente, almeno di essere in contatto frequentemente via email o per lavori che a volte ci coinvolgono insieme. Ecco, questo. A Treviso sei stato l'anno scorso, mi pare. A Treviso sì, a Treviso sono stato ospite del Comune di Treviso l'anno scorso, portavo per una giornata molto piovosa, ma sì. Voglio dire, la serata andò molto bene, perché questo libro, Calcio d'autore, è un libro che mi ha dato e mi sta dando molte soddisfazioni, perché non l'ho detto io. Ecco, l'hanno detto critici e giornalisti che si sono occupati sulle maggiori testate a parlarne, perché era un libro che non c'era, in quanto nel calcio il rapporto alla letteratura italiana purtroppo si è sempre parlato limitandosi a Saba. Ecco, Umberto Saba, famosissimo per la poesia Gol, che noi di una certa età, chiedo scusa, abbiamo studiato anche durante le nostri anni delle elementari. Io ne ricordo un'altra invece di Saba. Quale? La capra? A mia moglie. Ah, mia moglie, sì. Ecco, erano quelle le più, ecco, infatti a mia moglie, sì. E, però ecco, dicevo, del calcio, si ricorda Gol. E devo dire un aneddoto, chiedo scusa, ma queste... Ecco, questo tempo qua, sì. Ecco, anche qui a Bergamo, l'altro 127 gradi, ieri 14, quindi... Pazienza. Ecco, chiedo scusa. E quindi dicevo, sempre un aneddoto divertente. Qualche anno fa Gianni Mura, importante, conosciutissimo giornalista di Repubblica, e non solo, in un articolo aveva detto appunto che Saba aveva scritto una poesia sul calcio, Gol. Ebbene, io gli scrissi con, in modo molto gentile e cortese, di rettificare questa, rettificando questa sua affermazione, dicendo: guardi che Saba ne ha scritto 5, elencando, ha scritto 5 poesie per il gioco del calcio, proprio il titolo che ha dato a queste poesie, elencando le 5 poesie. Il bello fu che la domenica Gianni Mura, una volta, beh, questo è successo però alcuni anni fa, dava la pagella con i voti della settimana e aprì l'articolo con 0 a me stesso, perché ho detto una cavolata, diciamo, su Saba, dicendo che c'era solo la poesia. Invece un gentile professore, allora abitavo ancora di Cava dei Tirreni, mi ha fatto notare, ecco, questo, che appunto che non era una sola poesia, ma bensì erano 5. Ecco, questo è stato un po', benché una cosa di anni fa, che mi ha accompagnato, perché si conosceva troppo poco. Io in questo libro invece parlo di tante poesie scritte per il gioco del calcio, ma dall'inizio della nascita del calcio fino ai giorni nostri. Infatti in questo libro ci sono poesie inedite di poeti contemporanei che cortesemente, molti sono amici oltre che colleghi, che mi hanno cortesemente inviato per l'inserimento in questo libro. Mm-hmm. Ecco. Poi il libro non si ferma solo ai poeti, ma apre agli scrittori, quindi Arpino, Campanile, e non solo, poi c'è anche i grandi giornalisti, appunto come Gianni Brera, Gino Palumbo, Beppe Viola, e poi anche i mitici giornalisti radiofonici e televisivi come Nicolò Carosio, e poi anche una piccola sezione alle canzoni sul calcio, come quella di De Gregorio, per esempio, altre che ben conosciamo, Lucia San Siro, per esempio, di Vecchioni, e anche un po' l'ultimissima parte, gli striscioni dei tifosi. Scusi professore, io invece questa volta ho cercato di ricordare il nostro Aurelio Fierro. Grazie, anche sì. Da Campano. Sì. Allora, la seconda canzone? Il pianino di Napoli. Quanto sole è tornato stamani, quanta gioia discende nel cuore, nel ricordo dei tempi lontani, sogno te mio nostalgico amore. Tutta Napoli canta con me, tutto un mondo è felice perché è tornato il pianino in città e il monello d'intorno gli sta, mentre ascolto quel vecchio motivo del tempo giulivo mi pare di sognare per sentire la vecchia canzone. Ogni bella s'affaccia al balcon, sulla bocca si schiude un sorriso che illumina il viso ed invita ad amar. Anche tu, forestiero, vuoi sentire Camarillo? sole mio, mare chiaro, cor ingrato, oi Marì. È tornato il pianino in città e la luna sorride sul mar, con gli amanti di tanta poesia per Santa Lucia si torna a cantar. Ho rivisto la vecchia barchetta e una coppia in amore sul mare, col Vesuvio la luna civetta, non appena il bel sole scompare, carrozzella dal mantice in su, mi ricordi qualcosa anche tu? È tornato il pianino in città e il monello d'intorno gli sta, mentre ascolto quel vecchio motivo del tempo giulivo, mi pare di sognar per sentire la vecchia canzon. Ogni bella s'affaccia al balcon, sulla bocca si schiude un sorriso che illumina il viso ed invita ad amar. Anche tu, forestiero, puoi sentire Catarì, sole mio, mare chiaro, cuore ingrato, oi Marì. È tornato il pianino in città e la luna sorride sul mar, con gli amanti di tanta poesia per Santa Lucia si torna a cantar. Ed eccoci di nuovo in studio con il nostro ospite e il gioco del pallone. Ecco, io devo dire che è incredibile perché la scaletta si inserisce perfettamente. Visto? Perché questo si inserisce perfettamente? Perché pensa che io ho parlato ovviamente anche di quando io, non solo io, ero giovane, intorno agli anni, fine anni 60, inizi 70, e in cui si ascoltava tutto il calcio minuto per minuto, ecco, alla radio, e pensi che erano queste le atmosfere che mi circondavano, le canzoni di Aurelio Fierro, di Nino Taranto, Sergio Bruni. Ed era poi il bello che adesso che sentivo la voce bellissima di Aurelio Fierro, non dimentichiamo di una cosa, che Aurelio Fierro è stato uno dei più diciamo importanti studiosi della lingua napoletana. Vero. Infatti, chi volesse ricercare, c'è un vocabolario della lingua italiano-napoletano e napoletano-italiano firmato da Aurelio Fierro. Multiforme ingegno. Bene, dire, bene. Sì. Ecco, e dicevo, in quegli anni, pensi, la domenica si andava, a fine anni 60, si andava in un villaggio di Cava dei Tirreni, molto bello, pieno di verde, dove abitava una mia zia. E non avendo mia zia la radio, papà aveva comprato una radio portatile, una delle primissime, Radio Marelli, e si portava questa radio a casa della zia perché dovevamo sentire tutto il calcio minuto per minuto. Beh sì, certo. Ecco, e quindi che poi da questa radio passavano ovviamente tutte le canzoni di cui si diceva sì, prima, e la voce. E io in questo libro di calcio d'autore ho citato alcuni versi che ricordo proprio questi momenti. Se vuole li sì, leggo. Sì, sì, sì. Ecco. A ogni gol un urlo di mio padre alla radio Marelli. A dicembre avremmo fatto il presepe sulla specchiera accanto ai barattoli di creme di zia Angelina. Zeppole e miele il 19 marzo e la Milano-Sanremo non più vinta. E pedalavo e segnavo gol, ancora più di Pelé. Ecco. Ecco, queste erano le atmosfere di me fanciullo di 13, 15 anni, 14 anni, ecco, accompagnato da, appunto, da queste canzoni e dalla bellezza allora del calcio, che almeno per noi ragazzi d'allora sembrava quasi magica, in momenti appunto come grandissimi Rivera, Mazzola, i grandi che ahimè, non ci sono più, ce ne sono altri, ma è cambiato anche il calcio. Molto, molto, devo dire, sì. Ecco, ma... sarebbe un altro discorso. Comunque, sì, anche il calcio, sì, veramente, mi pare che una volta lo si seguisse più con più zelo, forse i giovani... Io so che una volta lo seguivo, anche seguivo i calciatori, adesso non so, non li conosco neanche più. Sì, perché, guarda, è andato un po', ecco, io, in questo libro c'è anche un capitolo dove è dedicato col titolo Calcio no grazie. Mm. Ecco, ci sono dei grandi autori che non amavano il calcio, per esempio Eugenio Montale. Ah. Eugenio Montale non amava il calcio, diceva che era pura follia, e addirittura raccontava un'altra grande poetessa, Maria Luisa Spaziani, che ho avuto il piacere di frequentare per anni, sì. Diceva Maria Luisa Spaziani che lui auspicava un qualcosa, diceva Montale, poiché era stato fatto senatore a vita, dice: io vorrei presentare una mozione di legge di fare il campionato di calcio soltanto 16 giorni all'anno. Sì, sì. 16 giorni all'anno, con il divieto assoluto di parlarne prima e dopo. E allora la Spaziani domandava, dice: come mai 16 giorni proprio? Solo 16 giorni, e lui rispose perché io al Corriere, lui lavorava allora al Corriere della Sera, al Corriere mi danno 16 giorni di ferie, allora in quei 16 giorni io lascio l'Italia, me ne vado in paesi più civili e quando torno so che tutto il problema calcio è risolto e io non sono disturbato. Un eretico che proprio. Mamma mia, sì, sì. Ecco, è che se ne parla troppo anche a sproposito. Assolutamente. Ecco. Beh, il calcio è diffuso, è lunedì mattina non si fa altro che parlare di calcio. Potremmo chiamarlo un'arma di distrazione di massa, o esatto. Sbaglio? Potremmo dire il nuovo oppio dei popoli. Esattamente, sì. Ma perché si gioca anche la schedina, no? Ma oggi, no, ma vedi Tesuina, io adesso non più la schedina, forse tu non sei... addentro. No, sono proprio fuori. Sai perché? Perché neanche io lo sono più. No, perché noi siamo fermi alla schedina. Infatti nel libro io parlo anche della schedina. Parlo del piacere, si giocavano tutte le partite di calcio con veramente di pomeriggio, si doveva fare il 13 o anche il 12, sì, tutta sì. A simare per un risultato che arrivava e che semmai ti poteva portare ad una vincita. Ecco, però oggi non è più così, perché oggi si scommette su tutto in tempo reale. Sono cambiati i tempi, naturalmente, dal tutto il calcio minuto per minuto, quei momenti romantici, si ascoltava in compagnia come un rituale, non so se è d'accordo. Sì, certo, eravamo lì tutti intorno alla radio, oggi purtroppo i tempi non sono più questi, c'era diciamo l'attesa dei risultati domenicali delle partite che venivano giocate tutte contemporaneamente al domenica pomeriggio, invece adesso si gioca il venerdì, addirittura la domenica fino a lunedì, e prima si scommetteva con la schedina, oggi puoi scommettere in tempo reale. Esatto. Anche durante la partita, ecco. Sì. Però si sognava una volta, perché si sognava quando facevi la schedina, sognavi e dicevi chissà che faccia almeno un 12. Ma oggi, vedi, c'è questo che era il tempo dei sogni, perché se noi pensiamo che tutto ciò che, di cui noi stiamo parlando avveniva intorno agli anni 60, gli anni 60 è stato il boom economico, il boom dei sogni dell'Italia, esatto. Che dimenticava finalmente quella che era stata la tragedia della Seconda Guerra Mondiale, Erano gli anni della 600, erano gli anni in cui si andava a fare la gita fuori posta, gli anni in cui si incominciava addirittura le famiglie più abbienti, non solo il televisore, ma ad acquistare il frigorifero. Sì. Ecco, quindi la schedina, la vittoria faceva sì che almeno ipoteticamente potesse portare a questo sogno di benessere, che sembrava portata di mano, ecco. La gente cominciava ad andare anche in vacanza, in montagna, al mare. Ecco, e si andava pure, si cominciava ad andare, se mai in maniera più povera, in maniera più semplice, non come oggi che non si va per il sole, per il mare, ma si va per la spa. Cioè, pensi l'assurdo, io dico, a me piace frequentare molto, ecco, il Trentino, no? Anche, quindi non, sì, distante da, appunto, da cui stiamo parlando, ma dico, è pazzesco che tu hai quel ben ben di Dio, che la natura e Dio ci ha dato, è di anche di ossigeno, anche di piacere, di sole, e invece vai a cercarti l'albergo, che la mattina te ne vai nella spa, dove è tutto, tra virgolette, artefatto. Diciamo. Artificiale, sì, giustamente. Logico. Sì. E niente, erano tempi diversi effettivamente anche dal punto di vista del pallone proprio. E continuiamo pure il nostro discorso in merito. Lei ci legge qualche pezzetto del suo libro? Sì, con piacere. Sì. Io vorrei, ci sono tante tante poesie anche di colleghi, di amici. Ecco, io vorrei invece ricordare, parlare una poesia di un amico del poeta Paolo Ruffilli, sì, che è di Treviso, sì, quindi siamo siamo sempre in tema. Ecco, e proprio Paolo Ruffilli, siamo amici, fraterni, mi ha passato due poesie inedite, una su Maradona e un'altra invece, che penso di leggere questa, proprio sullo sport che ha perso quella sacralità di cui si diceva prima, quel piacere, diventando solo una macchina di soldi. Tanto è vero che fa un gioco di consonanti Paolo Ruffilli, poi da Ruffilli dice lo sport, mettendo la R tra le virgolette, da cui si legge lo spot. Ecco, quindi questi sono i versi di Paolo. Il calcio giocato al mercato, sui banchi di linde botteghe, alla cassa in vetrina, stanchi cliché per la massa, sprazzi di gloria divina, palloni, maglie, pupazzi, spallette, perfino le fette di campo e l'erba pestata da grossi campioni, tori e montoni del sacro spot. Ecco. Questo Paolo lo conosciamo, è un... Certo, bello. Adesso ci fermiamo un momentino che andiamo a ascoltarci un altro brano. Luna Rossa. Sempre in tema, Antonio. Questa canzone che amavo quando avevo 7-8 anni. Ecco. Abbandonate luoghi sotto cappella nascondute, mani in da sacche pavoraitate, vaca fischianne stelle caso asciute. Aspetta a me e mi risponde, se io vuoi sapere, non c'è sta nessuna. E i chiamo non mi poteva vedere, ma tutta gente che parla te risponde tardi che vuoi sapere che non c'è sta nessuna luna rossa. Chi mi sarà sincera, luna rossa se ne aiuta la da sera senza me vedere. E io dico ancora che aspetta a me fuori un balcone stanotte tre e preghesando per me vedere. Ma non c'è sta nessuna. Mille più appuntamenti ci ho tenuto, tante più sigarette ci ho appicciate, tante tazze caffè mi sono bevute, mille bucchelle amare ci ho passate. Eccoci di nuovo in studio e abbiamo il nostro consueto siparietto Antonio. Allora, questa volta per storie di che altri, che naturalmente parla di sentimenti ed emozioni in altre lingue, Le Jardin di Jacques Prévert. Des milliers et des milliers d'années ne sauraient suffire pour dire la petite seconde d'éternité où tu m'as embrassé, où j'étais embrassé, un matin dans la lumière de l'hiver, au parc Montsouris à Paris, sur la terre qui est un astre. Allora, migliaia e migliaia d'anni non sarebbero sufficienti per dire il piccolo secondo d'eternità nel quale mi hai baciato, nel quale ti ho baciata. Un mattino nella luce dell'inverno, al parco Montsouris, a Parigi. A Parigi, sulla terra, la terra che è un astro. Bene, adesso ridiamo la parola al nostro Antonio. No, non devo dire che è un filo conduttore perfetto, perché parlare di Jacques Prévert, parlare di uno dei poeti che la mia generazione ha amato tantissimo, parlo appunto di coloro i quali sono intorno ai 60 anni oggi, e era il poeta, non solo il poeta dell'amore, ma era il poeta che ci faceva scoprire anche la leggera ironia in poesia, con per esempio la bella poesia Le belle famiglie, dove ironizza sulla fine della dinastia dei Luigi, oppure tantissime altre poesie contro la guerra, come Barbara, splendida poesia. Quindi, ma non solo Prévert, si leggeva, allora si scopriva, tra virgolette, Neruda, ecco, sì. Mi piaceva tanto, mi piace tanto Neruda. Ecco, non erano solo i poeti italiani che io, ma come me tanti altri, leggevo. Ed erano i sogni di noi ragazzi. Io ho amato la poesia da sempre, da ragazzino. Anche mamma scriveva, anche papà, ma in maniera così a livello amatoriale. E devo dire, non mi fermavo, ecco, quello è stata una lezione, non mi fermavo al contenuto, ma cercavo di capire il linguaggio poetico. Ecco, questo è servito molto, anche, si immagini, uno non crederebbe che è servito anche il Corriere dei Piccoli. Ecco, il Corriere dei Piccoli. Sì, perché anche lui nella sua semplicità insegna. Ecco, Umberto Eco, ho avuto il piacere anche di frequentare lo stesso, di intervistarlo, in rete ci sono anche delle foto mie con Eco. Ecco, diceva proprio questo, l'importanza che per la nostra generazione, lui era più anziano, più grande di me, è stata anche il abituare l'orecchio a quelle rime semplici che venivano fuori da Corriere dei Piccoli. Ecco, questo era. E io, a proposito di questo, erano in quegli anni in cui anch'io mi cimentavo e se permetti mi piacerebbe leggere. Sì, prego. Ecco, una poesia del passato. Bene, ecco. Bene. Questa è una poesia di molti anni fa, dove c'era appunto il sogno di un qualcosa, il sogno di un avvenire. È intitolata Arriveremo al mare. Lo sapevo da sempre. Lasceremo l'odorosa pianura di pioggia d'agosto e le mille strade celate da un geloso colle che inutilmente tenta di nasconder la cima. Senza luce negli occhi abbagliati, stanchi, testardi, arriveremo al mare. Ecco, questa era. Bella. Ti ringrazio. E beh, forse ecco, in questa poesia si vedeva, si leggeva, non era solo la mia visione della vita, quella di procedere negli anni con dei principi, con delle mete, sapendo che le difficoltà non sarebbero mancate, certo, ma che non bisognava scoraggiarsi ai primi ostacoli, e quindi questo portava in ogni campo, negli studi, il conseguimento di una laurea, di una famiglia, degli affetti che fossero tali e non superficiali, e questo ha un po', secondo me, rappresentato un po' la nostra generazione. Certo, e che si legge la speranza in questa poesia, si legge la speranza. Io ti dico, ecco, visto, se vuoi posso leggerti un'altra, sì, che sempre si inserisce, mentre la prima possiamo dire è la speranza, sì, di un ragazzo verso il suo futuro, che può essere il futuro degli altri, ma sempre di una generazione, questa invece è una poesia scritta, per la verità, non tantissimi anni fa, ma sì, tantissimi ormai, vabbè, nel 1980, una poesia, quindi un po' di anni fa, nel 1980, una poesia, erano gli anni anche in cui si aveva paura di uno scoppio, di una guerra atomica, purtroppo in questi giorni sembra che la paura possa ritornare, sperando che la ragione prevalga, meno male, speriamo di no, per carità. Ecco, che prevalga, dove c'era la possibilità di un disastro, purtroppo il terrore di un disastro. E io immaginavo invece una nuova colonizzazione, un nuovo mondo, e scrivevo così: un'antica storia di fanciulli alati racconta il mare, come uccelli ambulanti a denti stretti nell'alba verde si lasceranno trasportar lontano dal gran signore del tempo. Folle desiderio veder danzare sulle onde cavalli di gioia con criniere di vento. Disperata pioggia nell'ostinato volo rapido d'uccello. Storia di venditori che danzeranno negli indovinelli lunari. La danza corre lontano a fabbricare mari risparmiati da nebbie e polveri di stagioni. Ecco. Bene. Prego. Potrei dire questo, il prossimo libro, se mai posso, un'anticipazione. Ah, hai già finito un altro libro o stai scrivendo? No, lo sto è solo un regalo che ti faccio, perché è un libro che adesso si sta lavorando, ma ne sto lavorando, e non solo da solo, sarò con un amico, poi dirò, però mi piace dire, però il libro tratterà di due figure, una delle due figure è la grande figura di padre Davide Maria Turoldo. Ah, sì, sì. Ecco, quindi... una grande figura. Ecco, su questo si sta lavorando e io... E se volete potrei leggere una poesia di Turoldo. Certamente. Ecco, una poesia, visto che si riallaccia anche con quello che era il motivo della mia poesia, in maniera questa di Turoldo, però non assolutamente nessun confronto, ma parlo in maniera... Grazie, poi. Ed è una poesia che io spesso ho anche indicato ad amici che non conoscono la poesia di Turoldo per un approccio almeno iniziale, ed è una poesia che senz'altro Gesuina e lei tutti conoscerete, ma che mi piace ricordare. È intitolata Canta il sogno del mondo. Ama, saluta la gente, dona, perdona, ama ancora e saluta. Nessuno saluta nel condominio, ma neppure per via. Dai la mano, aiuta, comprendi, dimentica e ricorda solo il bene. E del bene degli altri godi e fai godere. Godi del nulla che hai, del poco che basta, giorno dopo giorno, eppure quel poco, se necessario, dividi. E vai, leggero dietro il vento e il sole, e canta. Vai di paese in paese e saluta, saluta tutti, il nero, l'olivastro e perfino il bianco. Canta il sogno del mondo, che tutti i paesi si contendano d'averti generato. È splendida. Molto bella. Ma sono molto belle le poesie di padre Maria Turoldo. Noto un qualcosa di particolarmente attuale. Nessuno saluta per via. È vero. E nessuno risponde al saluto addirittura. Questo è una cosa strana. È il condominio, esatto. È proprio una chiusura, diciamo, dell'uomo su se stesso, che è naturalmente foriera di poco di buono, diciamo, ecco. Non so se è scritta molti anni fa questa. Esattamente, quindi è di scottante attualità comunque. Si vede che già allora era così. Esatto. A me pareva che fosse più, la gente fosse più semplice, più... Bene, andiamo... Con un brano? Andiamo con il prossimo brano, che è Sole, pizza e amore. Sole, pizza, amore, stupide, sole, pizza, amore, stupide, sole, pizza, amore, stupide. Sole, pizza, amore, stupide, sole, pizza, amore, stupide, sole, pizza, amore, stupide. Caro Bob, come sta la vecchia Londra con lo smog? Caro Bob, dimmi un po', prendi sempre il tè col latte al 5 o'clock. Caro Bob, lascia tutto per favore, prendi un treno in poche ore, arrivare qui potrai, troverai tanto sole, tanta pizza e tanto amore. Sole, pizza, amore, caro Bob. Sole, pizza, amore, stupide, sole. Come va la birreria di Düsseldorf? Caro Dolph, come mai? Sempre chiuso in Kaiserstrasse te ne stai. Come mai? Lascia tutto per favore, prendi l'auto in poche ore, arrivare qui potrai. Troverai tanto sole, tanta pizza e tanto amore. Sole, pizza, amore, caro Dolph. Sole, pizza, amore, stupide, sole, pizza, amore, stupide, sole, pizza, amore, stupide. Caro Pier, come va l'inverno nella Villumiere? Caro Pier, pensi sempre ai defilé nell'atelier. Ma perché? Lascia tutto per favore, anche a piedi in poche ore, arrivare qui potrai, troverai tanto sole, tanta pizza e tanto amore, sole, pizza, amore, caro Pier. Sole, pizza, amore, tutte le sole, pizza, amore, tutte le sole, pizza, amore, tutte le sole. Uè paesan, uè paesan, ci lasciasti un giorno per non ritornare. Uè paesan, uè paesan, come mai, come mai, sempre dentro un grattacielo te ne stai. Come mai, lascia tutto per favore, prendi un jet in poche ore, arrivare qui potrai, troverai tanto sole, tanta pizza e tanto amore, sole, pizza, amore, uè paesan. Eccoci di nuovo in studio con il nostro ospite, il professor Antonio Donadio. Ecco, la parola a te, Antonio. Abbiamo parlato di tante cose belle, abbiamo parlato oggi di grandissimi poeti, come Prevera, anche solo accennato, poi abbiamo sentito una lirica stupenda, abbiamo accennato a Turoldo. Ah, e sì. Poi, però ecco, mi piacerebbe anche dire questo, che la poesia purtroppo oggi vive momenti molto difficili, perché non c'è purtroppo conoscenza, si leggono libri di poesia sempre meno, si acquista raramente, si ritiene, noi che facciamo questo, diciamo, questo mestiere, questo lavoro, per taluni dovremmo essere sempre quelli da regalare i libri, perché sembra strano, ma si acquistano libri di cucina, si acquistano libri sulla vita dei calciatori, assurdo, e ho fatto un libro sul calcio, ma come abbiamo detto, di ben altra natura, però poi i libri di poesia non si acquistano, semmai chi non mi conosce direttamente, così a volte dice, ah, il tuo libro, sai, quando me lo dai? Ecco, cioè, si viene spontaneo, io sorrido, ma dire vai in libreria, in tutte le librerie almeno, grazie a Dio per i miei libri, e lo compri. Invece c'è questo concetto, e poi anche un'altra cosa, si confonde, mi permetto di dirlo, si confonde molte volte il cantautore con il poeta. Il cantautore è senz'altro, io amo tantissimi cantautori, li ho inseriti anche nel libro, però il cantautore non è un poeta, e molte volte c'è questa discussione, viene fuori questa discussione, chi è il poeta? Io devo dire, con un po' mi dispiaciuto, ma qualche tempo fa ho sentito sulla Rai Sgarbi che disse: i grandi poeti, D'Annunzio, forse Montale, non ci sono più oggi i poeti. Un'affermazione assurda. E disse: i poeti di oggi sono i cantautori. Ecco, io dissento completamente da un'affermazione del genere, perché sono due realtà, due professioni, due, posso anche dire, arte, no? Due rami di uno stesso albero, ma due rami, ecco, di un albero uguale, ma due rami diversi. Perché, se posso permettermi, ecco, brevemente, sono questo, perché che differenza c'è tra il poeta e il cantautore, tra una poesia e una canzone? La canzone viene costruita insieme parole e musiche. Molte volte il cantautore ti dice: a me vengono prima le parole, poi ci metto la musica, oppure scrivo il brano musicale e poi costruisco i versi, sì, chiamiamoli versi, sulla musicalità, sul brano musicale che io ho composto. Quindi sono due cose che nascono in due momenti diversi e poi vengono, diciamo, trovano un loro corpo comune, unico. Invece la poesia no, la poesia, praticamente la musicalità dei versi e diciamo il contenuto di ciò che i versi raccontano è tutt'uno, nasce tutto assieme, non sono due corpi separati, è tutto insieme. Cioè il verso, quando Leopardi, il magico, tanti, il magico Leopardi, quando l'infinito sembra caro mi fu quell'ermo colle, no? È un verso sonoro, è un indecasillabo con le loro, con i loro accenti, i loro quattro accenti giusti, precisi, perfetti, è un verso musicale perché sono le parole che hanno musicalità, né come vengono disposte, come vengono a costruire il verso. Nella poesia, soprattutto nella poesia del Novecento, che è libera da schemi prefigurati come il sonetto o d'altro, ma è poesia libera, ma libera non significa libera da schemi, libera significa senza schemi preordinati. Ecco, sì, perdonate sì. Questo accenno un po' diciamo da insegnante. Didattico, ecco, sì, ecco. Esatto. Voglio dire semplicemente che in questo, no, in questa poesia del Novecento è la forma che detta il contenuto. Ecco, è tutt'uno. Quindi si fa adesso, quando ho letto perfettamente, se mi posso permettere, in francese e la traduzione gesuina, era musica. Al di là, noi, chi non conosce il francese, no, potrebbe, chi non conoscesse il francese, potrebbe non capire il significato della poesia prima poc'anzi letta, no? Però gli rimane la musicalità perfetta. Ed è proprio questo il nostro compito, diciamo, quello che volevamo effettivamente dire. Ecco, ci dà una conferma a questo, grazie. Chiedo scusa, però, in difesa della poesia. Certo, la voce. Certo. E per la prosa invece, professore, io non so, ricordo per esempio Joan Brera Fucarlo, quel grande innovatore della lingua, così spiritoso, intelligente, straordinario, eccetera. Ci sono aneddoti anche, diciamo, da parte sua, naturalmente nel libro, presumo. Sì, Brera, oltre che innovatore appunto della lingua, coniava neologismi a tanti, io racconto in maniera velata. Perché Brera, oltre a Brera, c'era un altro grande giornalista che noi ricorderemo sempre, che è Gino Palumbo. Gino Palumbo, sì. Esatto, Gino Palumbo, tra parentesi, era proprio nato nella mia stessa città. E mentre Brera era al Giorno, Gino Palumbo era al Corriere. E uno era il meridionale tipo Gino Palumbo, Gianni Brera il Lombardo, come sappiamo. L'uomo... tifosissimo, poi vabbè, lasciamo stare i gusti calcistici, però come giornalista non apprezzava lo stile di Gino Palumbo. Gino Palumbo non apprezzava due prime donne. Ecco, e uno dei loro grossi, diciamo una delle loro dispute avveniva sulla figura di Gianni Rivera. Gli Abbatini. Perché per appunto Brera era l'Abbatino, colui il quale tirava il piedino indietro per non farsi male durante gli... Mentre per Gino Palumbo, non solo per Gino Palumbo, e per molti altri giornalisti, era il Golden Boy, ecco, il ragazzo d'oro. E questa loro questo loro, non voglio dire difformità di giudizio, ecco, su Gianni Rivera aveva portato proprio, e io l'ho scritto nel libro, un vero e proprio, vera e propria antipatia, possiamo dire anche scontro. E io accenno soltanto che una volta in uno stadio in tribuna sono volati gli schiaffi. Addirittura. Da Gianni Brera e Gino Palumbo. C'è stata anche una dichiarazione, diciamo, come si dice, di duello. Si era pensato addirittura a un duello, perché in quegli anni ancora avvenivano duelli, Poi la cosa è stata pacificata, però i due si sono sempre, potrei dire una parola un po' grossa, ma si sono sempre odiati. Devo dire che io ero riuscito, non l'ho pubblicata bene, ero riuscito ad avere una foto da familiari di Gino Palumba, essendo della mia stessa città, dove, rarissima, Gino Palumba e Gianni Brera si stringono la mano. Un evento. Ecco, una foto che io, non originale ovviamente, che prova che non si trova negli annali. Sì. E di Beppe Viola, quel grande giornalista televisivo, che cosa ci può dire? Ebbene, Beppe Viola è stato un grandissimo, purtroppo è morto soltanto a 42 anni. Giovanissimo. E la famosa sua frase, quelli che il calcio, è presa, guardi un po' la combinazione, è presa proprio da Alersi di Jacques Prévert. Questa è proprio nuova. Quindi che io, esatto, che io ho poi riportato nel libro, proprio da Alersi, quelli che si amano, quelli che... Sì, esatto. E Peppe Viola è stato un innovatore nella lingua, ma soprattutto è stato un grandissimo cronista modernissimo. Lui aveva inventato addirittura, cose che prima non si facevano, le dirette, le interviste dirette appunto a braccio. Oggi si fanno 10.000 interviste ai giocatori durante le partite, ma addirittura Peppe Violi intervistava per esempio in strada, nel pullman, dei giocatori famosi in maniera spontanea, in maniera diretta, e questo a noi ragazzi dell'epoca o giovanotti dell'epoca piaceva molto, perché vedevamo che c'era meno falsità, meno costruzione, più spontaneità, come doveva essere, dovrebbe essere il gioco del calcio. Ecco. Certo. Niente, abbiamo concluso così a malincuore questa puntata, evidentemente, e ringraziamo il nostro autore, il nostro ospite. È sempre un piacere averti in trasmissione, sai Antonio? Come, dimmi? È sempre un piacere averti in trasmissione. No, il piacere è sempre mio, guarda, io ti dico, ogni volta che mi inviti io, no, sempre sì, perché voglio dire, oltre alla simpatia anche professionale che nei tuoi confronti, e oggi posso estendere, ormai posso permettermi nei confronti anche dei colleghi che non conosco della radio, e che chissà che un giorno ad personam. Bene, sarà un piacere per noi. Di nuovo, grazie per l'intervento e a Dio piacendo, alla prossima volta. Ciao, grazie, Antonio, ciao, grazie. Buonasera. Allora, qui noi vi diamo l'appuntamento, a Dio piacendo, a domenica prossima con un'altra, speriamo, bella trasmissione. E a tutti, come sempre, dico ciao ciao! Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.